Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Faccio tutto questo, ma l'obiettivo è non perdere. Perdo sotto forma del mio modo di essere. Ci sono, non ci sono, su di me non ci scommettere. Analizzo le mie azioni, su cosa devo riflettere. È una vita troppo dura, allora la devo sciogliere. Odio le paure, tutto quello che mi turba. Se non ce la farò, ovvio, non la potrò togliere. Eliminerò tutto ciò che mi disturba. Questo odio interiore lo devo sfogare. Non posso essere sempre io a restarci male. Conto il male, inizio a contare per dimenticarmi. Ne dirò che non so contare. Odio gli infami, odio tutto ciò che vale. Odio pure la mia vita, se va al contrario. Amo la perfezione, quindi odio l'imperfezione. Odio tutto ciò che è merda di questa nazione. Questo è odio per chi mi vuole male, a chi nel piccolo gesto non lo sa apprezzare. Per chi crede che destra sia distrutta, odio per chi disprezza chi ce la mette tutta. Questo è odio per chi mi vuole male, a chi nel piccolo gesto non lo sa apprezzare. Per chi crede che destra sia distrutta, odio per chi disprezza chi ce la mette tutta. Sono umile, dolce perciò, odio la mano. Non ci dico le situazioni, se ne sono in grado. Se non ce la farò, dirò che almeno ci ho provato. Sarà la dimostrazione che non era calcolato. Odio il male, io combatto per il bene. Non ce la posso fare se non combattiamo insieme. Io non voglio una battaglia che freme. Come per principio, prima di un fiore ci vuole un seme. Odio chi schiavizza, chi la vuole vinta, chi inganna e la gente finta. Fingi, tu fingi, io lo scrivo su un foglio. Odio chi ragiona con in mano l'orgoglio. Non sono perfetta, ma non fotti il mio ego. Se ti odio il motivo, beh, neanche te lo spiego. Sono tante le schifezze quotidiane che vedo, che alle tue cazzate odio nemmeno ci credo. Questo è odio per chi mi vuole male.